scrivere questa mia canzone. Mentre cammino leggo ovunque inciso il tuo nome sopra questa città. Nel cielo impressa la tua immagine, nessuno sa che te da me sei inseparabile. Le labbra dolci come il miele da cui gustarle, due occhi come perle, per ore potrei guardarli. Sei maledettamente bella, una stella che brilla nel blu, farei di tutto per averla. I nostri corpi aggrovigliati giorno e notte, nel letto gocce di sudore tra l'amore folle. Mi ha stregato anche il tuo nome, chissà poi perché. Domani voglio averti accanto, vivi dentro me. Ti scrivo una poesia, resti la mia parodia. Un dono, una malattia, sei la mia dolce follia. Ma ora apro gli occhi ed era solamente un sogno. Sei l'aria che respiro, di cui il mio mondo ha bisogno. Resti per sempre, tu sei dentro me. Un fiume pieno che mi sa travolgere. Resta per sempre la tua immagine nei miei pensieri, nei desideri. Resti per sempre, tu sei dentro me. Un fiume pieno che mi sa travolgere. Resta per sempre la tua immagine nei miei pensieri, nei desideri. Adesso il tempo è passato portando via quei ricordi. So bene che fra tanti mai poi mai tu te li scordi. Nessuno sa quello che noi ci ha legato. Quando ripenso a quel tuo viso che fra tanti mi ha stregato, il tuo essere testarda. I giorni noi passati insieme a saporare l'alba. Ricordo ancora quando mi hai fatto quella domanda. Noi due distesi corpo a corpo sorridendo sulla sabbia. Restavo inerme davanti al tuo dolce corpo. Una dea che col suo charme sai che mi ha sconvolto. Il nostro era amore, il nostro era sesso. Il nostro era tutto in che si è trasformato adesso. Non mi serve più sentirti accanto perché se penso che adesso ti ha un'altra accanto e non me. Resti sempre più la mia storia, tu resti solo tu, ma non ci sei più, ma non ci sei più, ma non ci sei più, ci sei più. Resti per sempre, tu sei dentro me. Un fiume pieno che mi sa travolgere. Resta per sempre la tua immagine.